Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. Settimana buona nonostante l'andamento di oggi sul fronte borse. Le borse adesso perdono l'1% a Milano, lo 0,50 a Parigi, invariata Francoforte. L'America è positiva di uno 0,30, a Londra meno 0,20. Buona tutto sommato sul fronte borse. Interlocutoria, per essere buoni, sul fronte euro. Oggi l'incontro tra il premier greco Samaras e il cancelliere tedesco Angela Merkel ha visto grandi dichiarazioni di intenti, posizioni non di strappo, e questo è già qualcosa rispetto al clima che si respirava a maggio-aprile. Tentativo di ricucitura, di tenere dentro la Grecia in tutti i modi, però senza aperture vere e proprie, senza che dalla Germania sia arrivato, come già si era intuito ieri, un via libera, un sì alla richiesta greca di dilazionare, di avere più tempo per fare i tagli da 13 miliardi e mezzo di euro, la cosiddetta austerity che la Grecia a cui la Grecia si è sottoposta come scambio per gli aiuti ricevuti da Fondo Monetario, Banca Centrale e Unione Europea. Si può vedere il bicchiere mezzo pieno e dire che appunto non c'è uno strappo, nonostante le dichiarazioni dei vari falchi, ultimo dei quali il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, non erano mancate in questi giorni. Il premier greco ha detto: noi non chiediamo più soldi, chiediamo solo più tempo, con un paese che nel quarto anno di fila in recessione, meno 7% quest'anno la Grecia. È difficile immaginare che possano essere sufficienti 2 anni per questi tagli, e la Germania teme però che più tempo significhi anche più soldi. C'è uno studio che dice che questo vorrebbe dire altri 20 miliardi di euro in più per la Grecia, e questo è il fronte europeo. Poi c'è il fronte italiano, la cosiddetta fase 2. Oggi il Consiglio dei Ministri ha analizzato la norma proposta dal ministro Fornero su una possibile sperimentazione di una decontribuzione, cioè pagare meno contributi, non pagarli del tutto, per le imprese che sono attente al cosiddetto capitale umano. È ancora molto fumosa l'idea. E poi c'è il programma taglia debito di un punto di PIL all'anno, quindi 15 miliardi di debito in meno all'anno, proposto dal ministro dell'economia Vittorio Grilli, e attraverso anche la cessione, la vendita di immobili e di partecipazione dello Stato, e poi anche la fase 2 della spending review, della revisione della spesa pubblica con nuovi tagli. Infine ricordo che in agenda dovrebbe esserci anche la defiscalizzazione dell'IVA per le opere infrastrutturali fatte con il project financing, quindi con l'utilizzo di privati, come annunciato l'altro ieri dal vice ministro Mario Ciaccia, una misura che vale circa 50 miliardi di euro in 10 anni. Tutte proposte. Si sapeva già che dal Consiglio dei Ministri non sarebbe uscita una decisione netta, che sarebbero state esaminate. Il ministro Grilli teme molto sulla tenuta dei conti pubblici, ma insomma, ne parleremo più avanti. Parleremo anche di politiche per le imprese, in una settimana in cui sostanzialmente a cavallo con Ferragosto abbiamo avuto in questi ultimi 10 giorni conferma di quanto stia tenendo bene il nostro export. I dati sul secondo trimestre, l'abbiamo ricordato in breve, sono dati importanti, fanno dell'Italia il secondo paese per esportazioni dopo la Germania, più avanti di tanti altri, con interi settori e distretti che tengono bene. È chiaro che vanno aiutati loro, e va aiutato anche la parte del paese che diciamo si occupa più del mercato interno, mercato che invece è in estrema difficoltà come domanda e consumi interni. Tra i titoli della borsa, visto che già mi chiedete, Fiat oggi perde più della media, meno 4,30%, Fiat Industrial, camion e trattori meno 2,20%, le banche oggi sono quasi tutte in flessione, Unicredito perde il 2,80%, Intesa San Paolo il 2,20%, Popolare Emilia Romagna meno 2%, Banco Popolare meno 2 come generali, Mediaset, che non è chiaramente una banca, perde l'1,70, Segnalo tra chi cede meno sul fronte bancario sicuramente UbiBank che perde solo lo 0,40% e il Monte dei Paschi che perde solo lo 0,60%. In generale c'è Mediolanum che guadagna lo 0,85%, Ferragamo lo 0,60%, Enel Green Power lo 0,30%, Campari lo 0,30% anch'esso. In assoluto invece il risanamento oggi realizzi dopo due giorni di corsa fortissima, meno 6%, sull'ipotesi che Santa Giulia venga ceduto al fondo guidato da Manfredi Catella Ines, e invece Prelios, il miglior titolo, più 21%. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora partiamo subito con le notizie in breve. Forse il caldo molla la sua presa, ma non le tensioni, ahimè, sui mercati. Oro in rialzo oggi, $1,663 all'oncia, petrolio a $97,46. Ancora per quello che riguarda altre situazioni e altri mercati, faccio notare che, anzi, vi do un aggiornamento sul petrolio. Adesso ha avuto un leggero calo a $96 all'oncia, ma dicevo. Il fronte benzina vede alcune dichiarazioni, perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato che le punte di prezzo non indicano l'andamento reale. Dice infatti il Ministero dello Sviluppo Economico: l'aumento del prezzo alla pompa della benzina è stato nettamente inferiore all'aumento del prezzo del prodotto sui mercati internazionali, consentendo di riassorbire in parte anche l'aumento delle accise per finanziare le spese di ricostruzione per il terremoto. Allora, io in questo paese è bellissimo, perché adesso scopriamo dal Ministero dello Sviluppo Economico che in realtà dobbiamo essere contenti, perché l'aumento alla pompa della benzina è stato inferiore all'aumento del prodotto sui mercati internazionali. Vabbè, scusate, avevamo capito male, io pensavo fosse una cattiva notizia avere la benzina a 2 euro, invece dobbiamo rallegrarci tutti quanti, perché la benzina a 2 euro è ancora poco rispetto a quanto sarebbe potuto essere. Fa caldo, Come va lo spread, volete sapere? Beh, dopo le dichiarazioni di intenti tra Merkel e Samaras, lo spread è risalito anche quello spagnolo, quello italiano ha sfiorato i 450 punti dopo che negli ultimi due giorni era ridisceso a quota 403-410. Tra l'altro varie fonti interne alla Banca Centrale Europea stimano che la Banca Centrale Europea potrà acquistare i titoli di Stato dei paesi più in difficoltà, cosa che la Germania fortemente non vuole, soprattutto la Bundesbank, la banca centrale tedesca. Dicevo, fonti della Banca Centrale Europea ritengono che dopo la decisione della Corte Costituzionale tedesca il 12 di settembre, la Banca Centrale Europea si metterà ad acquistare titoli di Stato. Molti vogliono sapere cosa ha detto Angela Merkel, adesso ne parliamo. Ha detto che vorrebbe che Atene restasse nell'euro, ha detto che nessuno nel governo è contro l'Atene nell'euro, che ha detto che si aspetta che Atene rispetti gli impegni, che farà di tutto perché Atene possa mantenere gli impegni, che è il nostro dovere aiutare Atene. Samaras ha detto che Atene rispetterà i suoi impegni e che la Troica dirà al governo, il rapporto della Troica dirà che il nuovo governo greco può ottenere i risultati. Non vogliamo altri aiuti, ha detto Samaras, vogliamo solo il tempo per respirare. Però la stampa greca sostiene che le riserve di liquidità della Grecia dureranno fino alla metà di ottobre prossimo, cioè se non riceverà la prossima tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo, il paese potrebbe avere problemi di liquidità e quindi, figuriamoci, anche pagare gli stipendi. Per quello che riguarda il fronte italiano, invece, questa mattina, prima dell'avvio del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio Mario Monti ha ricevuto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Secondo il comunicato poi diffuso da Palazzo Chigi, l'incontro è servito per dare un aggiornamento sui mercati finanziari e sulla congiuntura. È stato anche annunciato che il prossimo 4 settembre Mario Monti incontrerà a Roma il Presidente della Repubblica Francese François Hollande. Sull'Italia, la vicenda del COA, che è tornata in questi giorni di attualità dopo che ce ne siamo occupati parecchie volte. C'è stato prima un decreto per rendere più basso il costo dell'energia anche in Sardegna. Il colosso, infatti, al COA voleva chiudere l'impianto sardo di Portovesme perché costa troppo l'energia, poi sbloccato, poi ribloccato, poi risbloccato. Adesso di nuovo i lavoratori protestano e un gruppo di operai della COA ha bloccato da stamane il porto di Cagliari, si è anche gettato in mare per impedire l'attracco del traghetto proveniente da Civitavecchia. Sono 800 le persone che lavorano nello stabilimento dell'Alcoa. E tra l'altro la cosa interessante è che una quindicina di lavoratori è riuscita a salire sul traghetto Toscana della Tirrenia, devo dire in accordo con le forze dell'ordine, e ha sventolato uno striscione con la scritta stabilimento Alcoa al grido lavoro, sviluppo e occupazione. Dicevo, la cosa interessante è che i passeggeri del traghetto, invece che essere inferociti, hanno applaudito a più riprese gli operai mentre sistemavano lo striscione, nonostante la loro manifestazione stesse bloccando il traghetto. Ci ha raccontato anche questo tipo di accoglienza, chiamiamolo così, Bruno Usai, delegato FIOM, che ha partecipato alla protesta, uno di quelli che si è tuffato, e lo ha fatto al microfono la nostra Piera Ceci. Stiamo perdendo il posto di lavoro, sta chiudendo l'unica fabbrica che produce alluminio in Italia. Semplicemente abbiamo trovato però normale le forze dell'ordine a bloccarci l'accesso verso un attracco della nave. Allora abbiamo attuato un'azione un po' così, diciamo anche estrema, ci siamo buttati in acqua e a nuoto abbiamo raggiunto l'altra parte del porto e siamo entrati lo stesso. Anche lei si è buttato? Come? Anche lei si è gettato? Sì. Adesso siamo qui con lo striscione, aspettiamo che arrivi la nave, che tra l'altro ha fatto anche ritardo. Quindi faremo ancora una volta la nostra dimostrazione e poi vedremo le prossime giorni quali saranno le altre manifestazioni. Ecco, come insomma, non rischiate di dare un po' fastidio ai turisti? Insomma, l'altro giorno l'aeroporto, oggi il porto. Come stanno reagendo i turisti? Ma guardate, gran parte dei turisti sta reagendo che sono solidari con noi. Io non credo che per mezz'ora di blocco nave, blocco della propria auto sia una condizione in cui nessuno può resistere. Diverso è perdere il posto di lavoro e non avere più il sussidio per sistemare, per assistere le proprie famiglie. Anche il giorno scorso che abbiamo bloccato l'aeroporto hanno dato media, soprattutto una parte dei media, risalto più alle lamentele dei turisti piuttosto a quelli che sono solidari con noi. Noi abbiamo fatto il possibile per far passare tutte le macchine, soprattutto quelli che avevano bambini o persone che avevano delle condizioni, come diciamo, un po' disagiate. Abbiamo fatto il possibile per creare meno danni possibili, per rendere più. Loro devono venire in Sardegna, devono star bene, devono passare le proprie ferie in modo ottimale, però anche è vero che devono conoscere l'altra parte della Sardegna, che c'è quella che sta praticamente morendo di fame, perché possiamo dire, ci sono famiglie in tutti i territori che sono ormai da anni con i numeri spaventosi di cassi integrati, di persone con mobilità o addirittura disoccupati. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Beh, devo dire, difficile dare torto, permettetemi, al rappresentante dell'Alcoa. È vero, i disagi andrebbero evitati per i turisti, ma un turista può anche accettare mezz'ora di ritardo quando, e in effetti poi gli applausi sono arrivati, quando chi manifesta sta manifestando per la tenuta del posto di lavoro in questo periodo, in una regione già attraversata da mille difficoltà sul fronte occupazionale come la Sardegna. Detto ciò, la crisi oggi ci porta in Spagna, il racconto della crisi strana ci porta in Spagna. Il governo spagnolo ha dato oggi via libera alla legge per la liberalizzazione degli affitti, nota come legge sfratto express, agevolando sostanzialmente l'esecuzione degli sfratti in caso di insolvenza da parte dell'affittuario, fissando in alcuni casi un termine di soli 10 giorni. La normativa dà anche al proprietario la possibilità di recuperare la casa per uso proprio dopo un anno di contratto di affitto con un semplice preavviso di 2 mesi. La legge punta a rilanciare il mercato degli affitti, dove ci sono in Spagna ci sono 3 milioni di case vuote, secondo i dati ufficiali. Nel frattempo, sempre in Spagna, oggi una 50 di persone ha preso d'assalto un supermercato Carrefour a Merida, nell'Estremadura. L'Estremadura, per chi non lo sapesse, è la regione più depressa della Spagna, la regione più povera della Spagna, rubando generi di prima necessità in segno di protesta per i tagli alla spesa sociale. Si tratta, secondo fonti governative, di attivisti della piattaforma per il reddito minimo dell'Estremadura, di associazioni di disoccupati e cittadini. Hanno riempito i carrelli di olio, riso, pasta, latte e legumi e hanno tentato di abbandonare il supermercato. La maggior parte di questi però è stata intercettata da degli agenti di sicurezza e la polizia poi li ha arrestati. Questo capita in Spagna, per carità è un caso isolato, ma la dice lunga sulle tensioni che iniziano a attraversare anche il paese iberico. Nel frattempo oggi un presidente greco, Antonis Samaras, non con il cappello in mano, devo dire, con anche una sua dignità, si è presentato a Berlino per parlare con Angela Merkel e spiegare perché la Grecia ha bisogno di più tempo, come dice Samaras, più tempo, non più soldi. 349-238-6666 per i vostri sms. Come è andato l'incontro? Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Da quando è iniziata questa crisi del debito, ho sempre detto che lo scopo del governo federale è quello di far rimanere la Grecia nell'euro, e io voglio che rimanga parte dell'euro. E questo naturalmente ha guidato tutti i miei colloqui e anche il nostro incontro, perché l'euro non è soltanto una valuta comune, è un'ideologia, è un'idea dell'Europa. E quindi questa volontà è molto importante. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Beh, scusate il gioco un po' irriverente, ma se immaginate Angela Merkel come mina, ci vuole un certo sforzo. E Lupo come Samaras, ci sta tutta la cosa, no? Perché insomma Samaras ha cercato di spiegare alla Merkel un insieme di cose. Lei ha detto appunto quello che avete appena sentito: nessuno nel mio governo è contro Atene, mi aspetto che Atene rispetti gli impegni e farò di tutto perché Atene possa mantenere gli impegni, è nostro dovere aiutare Atene. E poi Samaras ha detto: Atene rispetterà i suoi impegni, non vogliamo altri aiuti, vogliamo tempo per respirare. C'è un passaggio in cui, che adesso vi faccio sentire in lingua originale, se me lo mandate. Ecco, in cui Samaras ha detto: ma insomma, come si possono fare le privatizzazioni se un politico di rango di qualunque paese che sia dice alla stampa che la Grecia vuole andare indietro al tempo della dracma? Ha detto: dopo quasi 6 anni di recessione, alcune esternazioni tossiche possono solo fare male. Ha chiesto quindi anche maggior moderazione negli interventi. Diciamo, abbiamo visto qualche eccesso anche in Germania, per essere buoni. Però dico, vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco perché ci colleghiamo con Adriana Ceretelli del Sole 24 Ore, corrispondente storica da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Aiutaci tu, nel senso che è chiaro che parole, tante parole, però non c'è stato uno strappo, se vogliamo essere un po' più positivi, non abbiamo visto quella rigidità che era presente fino a aprile e maggio, e ci è sembrato che di riffa o di raffa, termine poco tedesco, ma Angela Merkel volesse dimostrare che la Germania cerca di tenere la Grecia dentro l'euro. Io direi che questa rentrée dalle vacanze estive che sta per cominciare sembra portare un po' più di realismo in Europa, meno diciamo dogmatismo, più pragmatismo nella gestione della crisi dell'euro. E questo naturalmente non vuol dire che la Germania è disposta a far sì che i paesi del sud abbassino la guardia e diciamo rallentino gli sforzi di risanamento, al contrario, però diciamo che li guardano forse un po' meno in cagnesco, perché si sono resi conto che il crollo dell'euro non danneggerebbe solo il sud dell'Europa ma anche il nord, soprattutto in una Germania che oggi per esempio cresce molto meno di quanto non si aspettasse, l'export rallenta, la fiducia dell'industria tedesca scende in Germania, scende in Francia, e poi si è giunti alla conclusione, Merkel sembra essersene convinta, che andare alle elezioni del settembre dell'anno prossimo 2013 senza l'euro le creerebbe molti più problemi che andando con l'euro. Tutto questo fa sì che l'incontro con Samaras sia stato diciamo meno come dire contenzioso di quanto non ci si potesse aspettare. La Merkel naturalmente ha ribadito le proprie posizioni perché non può fare altro di fronte alla propria opinione pubblica, ma la convinzione comune è che questa tregua di 2 anni che Samaras chiede, proprio perché ha delle ragioni obiettive, cioè 5 anni di recessione, ma recessione a ritmi del 5-6%. 7 quest'anno, tra l'altro, sì. Esatto, sperando il 7%, non sono, diciamo, delle scusanti leggere. E di fronte a questi dati, persino appunto la Germania, persino il Nord Europa si rende conto che non si può chiedere l'impossibile. E soprattutto comunque sembra che il Nord Europa e la Germania per prima si sia convinta che l'uscita della Grecia non sarebbe indolore come in un primo tempo pensava, che creerebbe appunto quell'effetto domino, quel contagio che poi porterebbe i mercati a giocare sulla fuoriuscita di altri paesi. Quindi a questo punto la sensazione è che la Merkel insieme a Mario Draghi alla testa della BCE stiano manovrando per cercare di diciamo calmierare la crisi con delle misure ragionevoli che mantengano il rigore ma al tempo stesso diano un minimo di ossigeno ai paesi in difficoltà. Infatti oggi fonti della Banca Centrale Europea ipotizzavano che dopo il voto il 12 settembre della Corte Costituzionale tedesca, che dovrebbe dire sì al fondo salva stati europeo, la Banca Centrale Europea potrebbe iniziare a comprare titoli di Stato dei paesi in difficoltà, che è una cosa che la Bundesbank, la Banca Centrale Tedesca, non vuole, però insomma, non è che esistano solo loro. Tu hai ragione a far notare che probabilmente in questo così maggiore, in questa maggiore morbidezza della Germania c'è anche il constatare come l'economia tedesca non stia procedendo tanto spedita. Il dato di 2 giorni fa sugli indicatori PMI sui responsabili degli acquisti era un dato molto negativo, sotto la soglia tra espansione e recessione per quello che riguarda il settore servizi. L'Opel l'altro ieri ha annunciato migliaia di settimane corte per i dipendenti a partire da settembre, con un calo dello stipendio tra il 6 e il 7%, perché l'Opel sta vendendo meno. Non è un mistero che l'Opel venda nei mercati anche e soprattutto dei paesi del sud Europa, Spagna, Italia e quant'altro, e quindi alcuni segnali iniziano a essere percepiti anche in Germania. Devo dire che Samaras ha, a mio avviso, mostrato anche una forte dignità. Adriana, tu stimi che a questo punto il prossimo scoglio possa essere la Corte Costituzionale tedesca, superato il quale a questo punto, anche se magari, come dicono a Napoli, dovrà fare la faccia feroce per l'elettorato interno, ma insomma non vi sanno più tutte queste barriere al salvataggio non solo greco? Ma io penso, come tu accennavi, penso anch'io che alla fine la Corte di Karlsruhe dirà sì al fondo salva stati, perché non farlo sarebbe un disastro. Dopodiché comincerà forse la parte ancora più difficile, perché è vero che ci saranno questi strumenti per andare incontro appunto ai paesi che hanno problemi con gli spread, quindi la Spagna, quindi l'Italia, però l'uso di questi strumenti presupporrà diciamo il negoziato su un piano che in sostanza sarà il commissariamento del paese che chiede questi aiuti, con visita della Troica, quindi diciamo stretto controllo sui singoli paesi. quindi io credo che questi negoziati ci saranno. La Spagna certamente li aprirà perché ha bisogno per le banche, ma potrebbe averne bisogno anche più in generale per il salvataggio dei conti pubblici. E poi c'è l'Italia che non si sa che cosa farà, speriamo per certi versi che non venga commissariata, anche se per altri versi c'è chi se lo augura proprio per avere una sorta di obbligo politico. Beh, visto, a fare certe riforme. Visto che ne parlavamo ieri con Guido Gentili, diciamo che una forma all'italiana di commissariamento potrebbe essere un Monti bis, cioè un altro governo tecnico, certo, dopo le elezioni, senza avere, certo, il commissariamento ufficiale, ma un commissariamento di fatto, per cui la politica, certo, non tocca palla o la tocca solo in maniera di sponda, non in maniera diretta. Allora, grazie Adriana Ceretelli, tanto poi noi saremo qui a raccontare anche a settembre e soprattutto dopo il 12 settembre che piega prenderà la solidarietà, per ora molto debole a livello europeo. Grazie alla corrispondente Sole 24 da Bruxelles. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole. Allora, adesso andiamo in pubblicità, c'è il meteo, il calo di mezzo punto percentuale su Milano. C'è un ascoltatore che scrive: Barisoni, per me lei è un cretino. Guardi, le confesso che è una domanda che mi pongo spesso. Meteo. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa che, come dicevo prima dello stacco pubblicitario, ha recuperato molto, anche a Milano. Perdeva è arrivata a perdere l'1,30%, adesso ha chiuso invece con un meno 0,40%. Parigi ha chiuso in variate ed era negativa di uno 0,7, 0,8, 0,9. Francoforte, che perdeva mezzo punto, invece nel finale è positiva dello 0,30. Londra più 0,20, l'America più 0,60%. E allora borsa sia. Euro a quota 1,2547, l'America anche ha girato bene. Comunque, Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Parliamo di questa correzione in positivo degli ultima mezz'ora, ultima ora sostanzialmente. Sì, hanno, diciamo, girato in positivo le borse europee, mentre Milano ancora chiuso comunque in rosso. Si tratta soprattutto di indiscrezioni sul fatto che la BCE potrebbe considerare un nuovo piano di acquisto di bond dei paesi periferici con una banda di oscillazione. Se ne era parlato un pochettino nei giorni scorsi, erano arrivate anche delle smentite. Oggi, proprio nel finale di seduta, sono state un pochettino rilanciate dicendo che comunque una decisione verrà presa dopo la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca, e hanno spinto, diciamo, sul finale i listini. Anche lo spread abbiamo visto che era in area a 440 punti base ed è ridisceso verso quota 430 punti, sostanzialmente è un po' questo che spiega. Sì, una diversa lettura, diciamo, rispetto all'inizio. Noi abbiamo anche un po' scherzato, parole, però abbiamo anche detto in maniera molto esplicita che il bicchiere si può vedere mezzo pieno in questo caso, che non c'è stato il irrigidimento tedesco, ma l'abbiamo raccontato fino ad ora, ma il tentativo di Angela Merkel di dire: ma no, noi la Grecia vogliamo che resti, faremo il possibile, deve rispettare gli impegni, ma non siamo anti-Grecia nell'euro, anche perché, ripeto, anche in Germania si iniziano a fare i conti in tasca. Andiamo sui titoli. Oggi molto debole Fiat, recupera qualcosa nel finale, ma insomma meno 3,74%. Sì, una giornata di forte flessione. Effetto Volkswagen. Sì, è un effetto Volkswagen e tutti i costruttori tedeschi, perché ad esempio oggi hanno dato i loro dati sulle immatricolazioni rispetto al mese di luglio. In molti casi, del caso di Volkswagen, ma anche di BMW, complessivamente le vendite aumentano, ma quando si va sul dettaglio dell'Europa occidentale, abbiamo pesanti flessioni. Quindi l'Europa occidentale ancora è è un problema per il settore auto. Oggi hanno perso un po' tutti i titoli, da quelli tedeschi a quelli francesi come Peugeot e come Renault, e anche Fiat si è mossa un pochettino su questa onda lunga. Hanno recuperato le banche, non tutto devo dire, però appunto legate molto a uno spread che si era riportato verso i 440-450 punti, poi ridisceso. Vedo che Unicredito perde l'1,40, Popolare Emilia Romagna l'1,30, Banco Popolare meno 1,1 e poi Generali meno 0,70%. Sì, le banche oggi hanno pagato questo ampliarsi nuovamente dello spread fra titoli di Stato italiani e tedeschi, è arrivato a 444 punti base, prima di ridiscendere proprio sul finale su queste indiscrezioni in arrivo della BCE. Allora, Enel che oggi ha confermato l'obiettivo sull'indebitamento nel 2012 e poi bene il settore lusso oggi, devo dire in controtendenza, Ferragamo più 1%, ma vorrei chiudere con Prelios, quindi Enel e Prelios che è l'ex Pirelli Real Estate, l'ex parte immobiliare del gruppo Pirelli. Sì, su Enel ci sono le parole dell'amministratore delegato Fulvio Conti che ieri ha confermato i target sul debito per la fine del 2012 con una riduzione a 43 miliardi, così come era previsto dalla guidance. Si tratta di un fatto positivo perché negli ultimi giorni molti analisti erano diventati scettici sul fatto che potesse raggiungere questi obiettivi. Mentre per quello che riguarda Prelios, l'ex Pirelli Re, si tratta del fatto che domani scadono i termini per la presentazione delle offerte per il riassetto della società, quindi sostanzialmente per consentirgli di cambiare proprietà. Ci sono due cordate che potrebbero presentare un'offerta e sembra che queste offerte siano in procinto di arrivare sul tavolo degli advisor. Una è una cordata italiana formata da Merloni e da Caputi, che è un manager del settore immobiliare, un'altra invece è un gruppo americano che è Fortress, ma che ha molte attività anche in Italia e sarebbero pronti ad entrare in qualche modo anche ricapitalizzando la società, che probabilmente a causa di pesanti perdite dovrà decidere cosa fare, se ricapitalizzare e in che forma. Eh sì, diamo anche il peggiore in assoluto, perché se il migliore è Prelios più 22,36, Premuda meno 5, Risanamento dopo che molto aveva corso meno 4,90%, Gabetti meno 4,60%. Buon fine settimana a te Guido e ai colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. Noi adesso restiamo in Italia per occuparci del Consiglio dei Ministri. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Mario Monti ha ricevuto prima questa mattina il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco per un aggiornamento sui mercati finanziari, sulla congiuntura. Poi è iniziata la riunione del Consiglio dei Ministri dove sono stati presentati vari dossier. È ancora in corso, anche se è un Consiglio dei Ministri che non dovrebbe adottare alcuna decisione operativa. Segnalo anche che oggi il segretario del PD Bersani ha chiesto a Monti un cambio di passo. E va bene, insomma, poi vorremmo capire anche quale cambio di passo. Immagino con politiche per lo sviluppo uno dovrebbe però anche indicare quali soldi, dove reperire le risorse. Annuncio che nel frattempo il 4 settembre il Premier incontrerà a Roma François Hollande. Segue il Consiglio dei Ministri il nostro Andrea Viali. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. È ancora in corso da quello che ho capito? Correggimi se sbaglio. Ebbene sì, Monti tra l'altro l'aveva anche detto, più che un normale Consiglio dei Ministri, quello di oggi è una sorta di seminario sulla crescita, è una riunione, un seminario che è in corso ormai da sette ore nelle quali tra l'altro non è trapelato praticamente nulla. Un seminario, cioè il Consiglio dei Ministri è trasformato in workshop, no? Sì, un brainstorming, l'hai accennato anche tu, non sono attese decisioni immediate, provvedimenti concreti oggi, ma tutti i ministri, qualcuno ha detto, stanno illustrando i compiti chiesti dal professor Monti per le vacanze, stanno presentando le loro proposte per agganciare la ripresa, per fare in modo che la nostra economia torni a correre, e naturalmente poi quelle ritenute fattibili dovranno entrare nell'agenda di governo per la seconda fase della legislatura, per la fase finale della legislatura. Se possiamo trovare un comune denominatore di tutte queste proposte che non dovranno pesare sui conti pubblici, perché lo sappiamo, le risorse disponibili sono scarse, quindi diciamo questi dovranno essere interventi a costo zero o comunque in grado di autofinanziarsi, ad esempio, sì, magari attirando, non so, investimenti privati. Abbiamo visto infatti che per attirare gli investimenti privati nelle infrastrutture bisogna levare l'IVA. Non è che i privati in questo momento nuotino nell'oro come Paperone dei Paperoni, però vabbè. No, è che quando sento investimenti rilancio a costo zero penso sempre agli asini che volano, come dicono da alcune parti. Comunque andiamo avanti, perché le proposte in questi giorni sono arrivate, e tu già vi accennavi, Andrea, il fatto l'IVA, la riduzione dell'IVA. L'IVA delle per le infrastrutture, ecco, dovrebbero essere una sterilizzazione dell'IVA finanziate delle infrastrutture finanziate dai privati, è la proposta del vice ministro Ciaccia. Il pacchetto più corposo di misure invece è quello che sta illustrando il ministro Passera, che prevede tra i molti punti una serie di semplificazioni, anche agevolazioni per le nuove imprese, anche novità per quanto riguarda l'agenda digitale. E poi ci sono anche gli sgravi fiscali per le aziende che valorizzano il capitale umano, una proposta che è arrivata ieri dal ministro Fornero, una proposta che tra l'altro, a quanto apprendiamo, ha fatto anche un po' storcere il naso al ministro dell'economia Grilli, che sarà quello poi che dovrà aprire il borsellino per finanziare queste misure. Naturalmente, ecco, interventi del genere richiedono cospicue risorse, che non ci sono. Certo. Tra l'altro Grilli sta anche lavorando lui stesso su una serie di dismissioni del patrimonio pubblico, insomma parliamo di 15-20 miliardi di euro per finanziare poi quelli che saranno gli interventi. No, certo che l'immagine di Vittorio Grilli con questo suo aplomb molto britannico, col borsellino da uomo facis, un po' mi fa rabbrividire, anche se è vero che è un borsellino più che una borsa, perché qua si riduce la dimensione di quella che a Venezia si chiama scarsella. Comunque, detto questo, tu citavi l'esenzione IVA sulle opere infrastrutturali, c'è la Spending Review 2, c'è il programma del ministro Clini sull'ambiente, la proposta Fornero, però, come tu ricordavi, attenzione, perché il ministro Grilli ha promesso che ci sarà un piano che taglierà il debito di 15-20 miliardi l'anno attraverso riduzione della spesa e cessione di immobili e partecipazioni dello Stato, per cui questo mal si concilia, diciamo così, con l'idea di invece incassare meno da parte dello Stato, anche se non è detto che non ci possa essere una terza via, se le cessioni e le vendite fossero non a prezzi di saldo, come è il rischio con questa borsa, ma fossero ben valorizzate, potresti anche liberare delle risorse per far ripartire l'economia, correre non lo so, ma almeno ripartire. Andrea Viali, in bocca al lupo, perché mi sembra appunto che tu seguirai questo seminario, questo workshop in cui sì, sono trasformato il Consiglio dei Ministri tutta la giornata. Mi auguro che poi si arrivi anche a una votazione, a uno scrutinio. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, tra l'altro, ecco, no, per fare i conti, ecco, diciamo, si sta studiando anche il modo in cui reperire quei circa 6 miliardi di euro che servono per scongiurare un aumento dell'IVA che è stato spostato a giugno, lo ricordiamo, volevo aggiungere soltanto questo. Assolutamente, no, quello è un tema fondamentale a cui noi dedichiamo anche un nostro richiamo nei GR da alcuni giorni, quella che in gergo si chiama una lapide, perché ci sembra assurdo che debba pagare l'IMU chi la casa ce l'ha avuta distrutta e in alcuni casi non è ancora rientrato, ma anche se fosse rientrato e alle prese con ben altri problemi rispetto all'IMU. Grazie Andrea Viali, e adesso traffico e poi restiamo in tema di economia italiana e iniziative per le imprese. 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, restiamo in tema di rilancio del paese e quindi anche di questo Consiglio dei Ministri, che ha ragione il nostro Andrea Viali, non è un vero CDM, nel senso che non usciranno decisioni operative, è più una, così, una rendicontazione del lavoro fatto quest'estate, e immagino che i voti li darà il ministro Fornero, visto che è quella più professorale, ma al di là della battuta ogni ministro sta presentando le sue proposte e anche come spera di ottenere le risorse e che effetti queste proposte dovrebbero sviluppare in termini di crescita economica, la cosiddetta fase 2, in un momento in cui le imprese italiane, è un dato che sui giornali complice il clima estivo è passato un po' inosservato, ma insomma le imprese italiane anche nel secondo trimestre dell'anno e quindi come bilancio, come giro di boa della metà anno, hanno ottenuto dati ottimi sul fronte delle esportazioni, passate da 154 miliardi nei primi 5 mesi del 2011 a 161 miliardi, ossia un 4%. È lo stesso aumento che ha avuto la Germania, che pure esporta molto di più di noi, esporta tre volte più di noi, 450 miliardi, ma anche la Germania ha fatto più 4%. E le importazioni italiane sono scese nel frattempo del 5%, portando quella che è la nostra bilancia commerciale, fondamentale poi per l'avanzo primario, quindi per le entrate e uscite prima di pagare gli interessi sul debito, per avere un po' di avanzo in saccoccia prima di pagare gli interessi sul debito. Dicevo che il nostro deficit con l'estero è sceso da 2 miliardi è da 18 miliardi dei primi 5 mesi dell'anno scorso a soli 2 miliardi e 600 milioni. Professor Marco Fortis, docente di economia industriale alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A costo di annoiare i miei ascoltatori, ripeto ogni volta che lei è uno dei pochissimi economisti in Italia che conosce i numeri dentro, i numeri veri dell'export, guarda dentro i numeri. Allora, se vuole darmi un commento anche su un dato che mi sembra difficilmente commentabile, cioè le imprese italiane, i distretti stanno facendo la loro parte, visti i numeri, vista la percentuale di crescita, di che cosa avrebbero bisogno se lei potesse avere un filo diretto in questo momento con il workshop, con il seminario a Palazzo Chigi? Ma diciamo che al momento attuale non è facilissimo aiutare chi esporta con misure incisive, perché quella che poteva essere un'arma importantissima e che si stava immaginando nell'estate dello scorso anno, cioè la cosiddetta svalutazione fiscale, in altri termini aumentare l'IVA e con il ricavato ridurre in pratica gli oneri sul lavoro delle imprese esportatrici, è purtroppo un'arma che ci siamo bruciati con la crisi di fine anno scorso, che ha costretto addirittura a aumentare l'IVA, ma per dedicarla a tutt'altra finalità. Ai tassi di interesse sul debito, allo spread che sale. A contenere, certo, la crisi fiscale, a ridurre il deficit e a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio. Quindi in questo momento, più che misure di immediata applicazione, quello che si può fare per le imprese è continuare nell'opera di favorire da una parte il processo di internazionalizzazione anche attraverso strumenti come quelle delle reti di impresa che un numero crescente di imprese sta utilizzando, ma anche poi con quelle migliorie di sistema di cui in parte si parla anche oggi nel Consiglio dei Ministri, come il miglioramento del gap nel digital divide, appunto, che l'Italia ha rispetto ad altri paesi. Avere imprese più moderne che sono capaci di relazionarsi meglio con i mercati internazionali è uno sforzo di miglioramento strutturale. Purtroppo nel breve termine abbiamo visto che anche la Germania, che pure è attrezzatissima, ha visto rallentare anch'essa al 4%, come l'Italia, la crescita dell'export. E tra l'altro, se da una parte questo dato è certamente positivo perché permette di continuare a migliorare il livello assoluto delle esportazioni, bisogna dire che è stato ottenuto soprattutto attraverso un aumento dei valori medi unitari all'esportazione, cioè essendosi svalutato l'euro rispetto al dollaro, molte esportazioni verso i paesi extra UE, sia dell'Italia che della Germania, si sono apprezzate in euro, mentre a livello di volumi stiamo arrivando a una forma di rallentamento progressivo verso una saturazione della crescita dei volumi. Sì, va detto che comunque manteniamo quote di assoluto rispetto nel settore calzature e pelli, per esempio l'11,5% a livello mondiale, ma anche il mobili 8,6%, vetro, ceramica, materiali per edilizia 6,6%, macchinari, apparecchi meccanici 6,5%, abbigliamento 5,5%. Siamo molto deboli invece in altri settori, gli apparecchi elettronici e ormai purtroppo anche negli autoveicoli, solo 2,7%, con distretti che noi con lei ogni tanto abbiamo cercato di raccontare, professor Fortis, che vanno da, non so, la provincia di Piacenza ha fatto più 23% nell'export quest'anno, l'Etna Valley, quindi le aziende farmaceutiche ed elettroniche, lì c'è la ST Microelectronics, ma non c'è solo quella, c'è tutto l'indotto per gemmazione, ha fatto più 44%, a Bergamo il distretto delle macchine e apparecchi meccanici più 10% all'inizio dell'anno e via così. Lei dove vede gli elementi di maggiore criticità, Fortis, e dove vede invece comunque un sistema di distretti italiani che qualunque cosa capiterà e anche in assenza di aiuto potrà continuare a registrare queste cifre? Direi che gli elementi di maggiore criticità in questo momento stanno innanzitutto nello scenario internazionale, che vede un rallentamento di tutto il commercio mondiale, quindi non potremo più attenderci quei recuperi, quelle crescite che abbiamo visto negli ultimi, diciamo, 18 mesi molto intensi, e che hanno portato tra l'altro l'Italia nel 2011 a livello di paesi del G20 ad avere la maggiore crescita del surplus manifatturiero con l'estero. Siamo passati, secondo le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, da un surplus di 56 miliardi di dollari nel 2010 a 82 miliardi di dollari nei manufatti non alimentari nel 2011, una crescita del 46% del nostro surplus con l'estero, che è stata più forte persino di quella della Cina, della Germania e della Corea del Sud. Questo è un fatto molto positivo, che però non si ripeterà certamente nel 2012 e nel 2013, perché si prevede un rallentamento molto forte del commercio mondiale, che riguarderà poi le esportazioni di tutti, compresa la Germania e la stessa Cina. Quindi c'è una criticità dello scenario sullo sfondo, e poi ci sono ovviamente dei problemi diciamo invece più legati al sistema Italia, che però più che l'export riguardano chi produce essenzialmente per la domanda interna. Oggi più che aiutare chi esporta, che certo, sta facendo di tutto e più di così è difficile che possa fare nel breve periodo, bisognerebbe trovare il modo di aiutare, certo, chi vende sul mercato interno. La misura più importante è proprio quella di scongiurare il temuto aumento dell'IVA, sì, da 21 al 23%. Se scongiurasse quello, certo, si otterrebbe un effetto. Già sarebbe qualcosa. Sono d'accordo con lei, professor Fortis. Le auguro buon fine settimana, così come ringraziando Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Lo auguro anche a voi in ascolto, e lo auguro anche a chi mi ha chiesto se mi rendo conto che sono un cretino. Ripeto, adesso avrò il fine settimana per pensarci con attenzione. Buon fine settimana a tutti voi. Radio 24. La passione si sente.